Tabula Rasa è in trasferta alla presentazione del libro di Chiole, Il Decamerdone, per Feltrinelli Comics. 144 pagine, 18 euro. Siamo qui con Chiole. Praticamente hai fatto 10 novelle ispirate, almeno nel titolo, a Boccaccio. Quanto c'è di Boccaccio all'interno del libro e quanto invece poi c'è di tuo? E la gag è soprattutto sul nome che mi faceva ridere. Quando ho fatto la proposta di Decamerdone è piaciuta e visto che è piaciuta abbiamo proseguito con quel titolo. Ma che c'entra con la pandemia è una cosa, non lo so, forse ce l'avevo in testa, ma l'avevo, non è mirato alla pandemia. Poi quando è uscito quel titolo, anche ragionandoci, ho visto che si poteva collegare alla nostra situazione del momento e allora ancora meglio. Poi si pensava di mettere un intro in cui si faceva finta che queste persone andavano a raccontarsi le storie isolate come nel Vero Decamerone, che non conosco solamente qualche storia che mi hanno raccontato e più l'intro, ma niente, non ho messo neanche l'intro e sono rimaste solo 10 storie col nome storpiato, che faceva ridere sia per il suono e sia anche perché si ricollegava a quell'evento. Ci sono scienziati in missione per conoscere i segreti del piacere femminile, diciamo. Questa è una cosa che a me ha colpito. Penso alla seconda storia, per esempio. No, la lettera giusta, perché anche quello che ha scritto Boris Battaglia dietro, che prende paradosso dei comportamenti pregiudizi dei maschi occidentali. Un po' non è mirato il paradosso, è solo robe che mi diverte rappresentare o pensare. Per esempio c'è qui la ragazza che ha le sue cose ed è isterica e lui la sgrida e si mette a piangere. Cioè, sono situazioni che mi fanno ridere perché sono un po' dei cliché che rivediamo sempre. Non è mirato a prendere in giro il paradosso del maschio, piuttosto che sono robe che mi colpiscono, mi fanno ridere e non c'è uno studio dietro. C'è un'altra, una frase che a me ha particolarmente colpito, che è quella nella prima storia, quella diciamo dell'alieno che arriva sulla Terra, sì. In cui a un certo punto uno dei personaggi dice: per evolversi c'è bisogno di insoddisfazione. Questa frase è una delle poche cose che ho imparato nella vita dell'insoddisfazione, e visto che mi piaceva disegnare gli alieni gliel'ho buttati lì, ma erano solo un condimento. Questa storia si basa tutta su questa frase che tu hai, che sei riuscito a estrapolare, proprio questa, quella più importante, perché tempo fa avevo chiesto a un mio amico che studia filosofia, allora ti faccio una domanda, gli ho detto, ma proprio lì eravamo allo skate park, gli ho detto, lui cervellone, infatti si chiama testa, perché ha una grande testa, quindi sicuramente è anche un grande cervello, gli ho chiesto come mai l'uomo è sempre infelice, mi fa, perché è l'unico animale che è dotato di immaginazione, quindi puoi sempre immaginare situazioni possibili e quindi in queste situazioni possibili ce n'è sempre una in cui stai meglio e dici perché non sono così, e allora questo è il succo che ho capito, cercato di trasmettere in questa storia. Poi non tutte hanno un messaggio profondo dietro, ma questa qui ce l'ha ed è questo. Grazie mille, grazie a te.